e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buongiorno a tutti, benvenuti. Cuore Denari torna in trasferta e questa volta lo fa per partecipare a Forum Agenti, la manifestazione interamente dedicata alla ricerca, alla selezione degli agenti di commercio. Siamo a Fiera Milano City, da ieri sono in corso per 3 giorni in tutto colloqui e relazioni a tutto campo fra gli agenti di commercio che cercano aziende e aziende mandanti che cercano nuovi agenti di commercio. Oggi noi parleremo di questa professione dal nostro consueto osservatorio privilegiato, che è quello di Cuore e Denari. Per i Denari un focus particolare sarà dedicato alla professione, ma soprattutto ai giovani che vorrebbero candidarsi a fare questo lavoro. Vi spiegheremo qual è il giusto biglietto da visita con cui presentarsi. Abbiamo qui con noi il giovanissimo presidente di agenti.it. Giovanissimo. Senti, mi è venuto il ghigno, un po' malefico. Giovanissimo. L'amico Davide Ricci, che ringraziamo. Perché Deborina è un po' viperina, Grazie a voi. Davide Ricci, che già ieri ha partecipato lanciando anche questa trasmissione a Focus Economia. E quindi buongiorno, benvenuto e complimenti intanto per la vostra manifestazione, che è sempre molto partecipata, come possiamo vedere anche questa mattina. Grazie. 800 24 00 24, il numero verde che potete comporre per rivolgerci le vostre domande, se avete delle curiosità su questo lavoro, ma anche se siete giovani o se avete dei giovani in famiglia che sono interessati a intraprendere questa professione o che per qualche motivo hanno incontrato questo mondo. Raccontateci, fateci le vostre domande sul percorso che porta ad imparare questo mestiere. E gli agenti di commercio sono i protagonisti della nostra puntata e ne parleremo anche dal punto di vista del cuore, cioè della salute. L'agente è un po' l'uomo che con il suo lavoro incarna il professionista di oggi, un uomo sempre in corsa, coinvolto e sopraffatto da una vita frenetica e che necessita di prontezza, acume, rapidità di scelte, insomma di un cervello elastico. Ne parleremo nel corso della puntata, in cui, partendo naturalmente dalle vostre richieste, dai vostri bisogni, vogliamo come sempre suggerire dei consigli pratici per mantenere o recuperare nel caso il benessere. Ci aiuterà il nostro professor Andrea Saloni, urologo e andrologo presso il Dipartimento di Urologia dell'Università Vita Salute del San Raffaele, perché oggi è l'ultimo venerdì del mese e quindi torna l'appuntamento con Salute Uomo. 800 24 00 24 per gli interventi Cuore Denari. Esattamente. Allora, Davide Ricci, cominciamo subito con un bel affresco, una bella fotografia di questa manifestazione che ospita Radio 24, che stamattina ospita Cuore e Denari, ma soprattutto ospita tanti aziende, tanti agenti di commercio o potenziali agenti di commercio. Che cosa fate in questa rassegna? Allora, in realtà poi è proprio una manifestazione di colloqui di lavoro, quindi in questa rassegna ci sono gli espositori, come si dice quando si parla di fiere, che sono le aziende che cercano i nuovi agenti di commercio. Le aziende hanno di fatto una postazione di lavoro, di colloqui, con delle scrivanie, con delle sedie e quant'altro. I visitatori sono gli agenti di commercio che sono interessati a rappresentare delle nuove aziende. In realtà il profilo degli agenti di commercio che vengono è comunque variegato. Ci sono agenti di commercio che già lavorano e quindi magari vengono qui per ampliare il loro numero di aziende rappresentate, e ci sono invece gli agenti di commercio che già lavorano e magari vogliono sostituire un'azienda o più aziende che già rappresentano, e poi ci sono gli aspiranti agenti di commercio, giovani e meno giovani, che invece vogliono affacciarsi alla professione per appunto collocarsi nel mondo del lavoro con questa professione, che è ancora una professione molto molto molto interessante. Percorrendo questo corridoio che dall'ingresso ci porta qui alla nostra postazione, stavo monitorando un po' tutta la cartellonistica delle aziende che sono qui pronte appunto ad ascoltare questi profili, questi candidati, e facevo caso proprio all'aspetto che molte di queste non ne avevo mai sentito parlare, nel senso che c'è probabilmente anche una pletora, come dire, di società molto nuove in tanti campi appunto che si stanno candidando a presentarsi sul mercato e hanno bisogno di questa professionalità. Assolutamente sì, in realtà che cosa succede? Che gli agenti di commercio sono anche, se vogliamo, un'alternativa ai marchi conosciuti. Faccio un esempio: non tutte le aziende hanno la possibilità di fare delle campagne pubblicitarie e farsi conoscere ai consumatori tramite quelli che sono i media tradizionali. Altre scelgono invece di investire le loro risorse nel personale di vendita, quindi magari non hanno un fatturato che ancora gli possa garantire di fare delle campagne pubblicitarie, certo, e usano gli uomini in realtà, perché poi tutto va venduto, bisogna comunque, si vive di rapporti umani, e gli agenti di commercio sono in realtà proprio il rapporto umano mano fatta persona, se vogliamo, e quindi cercano di collocare i prodotti nei negozi, nei grossisti o dovunque, e quindi è un'opportunità anche quella. Poi magari quando faranno un fatturato più alto, quindi passeranno da essere delle piccole medie imprese a delle grandi imprese, magari saranno più conosciute, quindi magari i marchi che vedrai passando saranno un pochino più conosciuti, anche se in realtà ci sono tantissime aziende, certo, con dei brand importanti che magari sono su un'altra corsia rispetto, esatto, no, rispetto tra l'altro, ma questa osservazione la facevo comunque in termini positivi, ci dà un po' il segnale di vivacità di nuove piccole imprese che nascono in Italia, e quindi insomma ci dà anche un segnale positivo per l'andamento della nostra economia. Ci sono molte start-up, ecco, infatti mi fai notare questa cosa, quest'anno rispetto magari all'anno scorso, dove questa cosa era un pochino meno forte, tante nuove aziende, ma non soltanto nuove che si sono approcciate alla manifestazione, perché il panorama delle aziende italiane è enorme, quindi tante non ci conoscono nemmeno, quindi certo, non possono venire qua perché non sanno nemmeno che c'è l'evento, ma in realtà sono tante aziende proprio nuove appena costituite e che vogliono improntare una rete vendita e dire no, noi vogliamo proprio vendere attraverso gli agenti di commercio, perché gli agenti di commercio sono un costo variabile, è ancora una di quelle cose per cui se vende viene retribuito, altrimenti no. Ma quanti sono gli agenti di commercio che operano in Italia? Il dato dell'anno scorso è 250.000, è la cifra esatta? Siete cresciuti oppure la crisi vi ha selezionato? Allora, in realtà sì, la cifra è molto vicina a quella che poi è la cifra reale, quindi 250-240.000. Non avevo dubbi perché me l'ha suggerita Deborah, per farmi fare bella figura. Sono andata sul loro sito a controllare. Vabbè, però allora ero tranquilla. Sono due contro uno, adesso magari mi chiudo un pochino. Però insomma, Davide, sei anche bello alto, importante, ce la fai a sostenerci, ad affrontarci, dai. Confrontarci. Vabbè, sono molto sulla difensiva, comunque ok, va bene, no, dai. Rilassati. Allora, sono comunque, quella è la cifra. Quindi sono 240.000. Allora, in realtà gli agenti di commercio movimentano il 70% del PIL, quindi comunque sono caspita. È un numero importante, insomma, quindi è chiaro che il numero è assolutamente sì, è quello, è corretto. Quindi il 70% del PIL, noi siamo qua ospiti di una manifestazione che movimenta tutta questa economia in Italia. Esattamente sì. Allora, che cosa succede? Ci sono dei settori che meglio si prestano a questa cosa, quindi non so, faccio un esempio, l'edilizia, l'alimentare, il settore dell'energia, tantissime aziende di energia, ferramenta, giardinaggio, industria ad esempio lavora molto con gli agenti di commercio. Immaginiamoci un'azienda che produca magari delle forniture industriali, che deve contattare tutti i clienti ed informarli, quindi la figura dell'agente diventa anche quella dell'informatore oltre che del venditore. Cioè oggi quando si vende è anche importante vendere il prodotto giusto al cliente giusto, non è banalmente quanto costa, no, fammi di più, fammi di meno. È chiaro che poi bisogna essere competitivi e l'agente di commercio serve anche a quello, quindi assolutamente sì. Alcuni settori si prestano di più, altri di meno, ecco, questa è la risposta. Allora, 800 24 00 24 è il numero verde per i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando e che ci stanno seguendo anche se siamo in trasferta. Questa mattina vi dico anche, vi racconto quello che sta succedendo in diretta live, c'è un fotografo che con una macchina veramente sofisticata sta anche riprendendoci in diretta in tutta la nostra prestazione di questa mattina, per cui rimarrà nella documentazione di agenti.it insieme a tanti altri documenti storici. Assolutamente, ecco. Sì. Allora, come fa Davide, un giovane, ad intraprendere questa professione? Lo sapete, lo sanno i nostri ascoltatori, lo sanno anche tutti gli agenti di commercio che stanno seguendoci questa mattina dal nostro pubblico. Noi abbiamo molto a cuore la gioventù, il tasso di disoccupazione giovanile in Italia è ancora altissimo, sopra il 40%, una cifra inaccettabile, quindi se ci dovessero ascoltare dei ragazzi che volessero candidarsi a fare una professione di questo tipo, intanto magari potrebbero certamente, se sono a Milano, partecipare a questa manifestazione per annusare un po'. Allora, la manifestazione è aperta agli agenti di commercio, ma anche agli aspiranti agenti o semplicemente anche a, non so, a dipendenti che vogliono capire se magari ok, penso di diventare, mi trovo male, no, è aperta completamente. Allora, l'ingresso è gratuito, certo, e bisogna accreditarsi, appunto, certamente si accredita e si entra e si cerca di capire un po' come questo 70% del, certo, PIL viene poi movimentato da persone che vendono. Davide, tu come hai iniziato? Allora, io sono figlio d'arte. Quindi che cosa succede? Allora, racconto brevemente. C'è il gene dell'agente di commercio. Sì, ormai, e non solo nel DNA, assolutamente sì. Mio padre è agente di commercio, mia madre è agente di commercio, mio fratello è agente di commercio. Non è che potevo fare quando il medico. Quando si dice, perché insomma, no? Quindi, proprio cioè, il medico ha scelto l'alternativa. Ho qui vicino, insomma, quindi sono forse stato influenzato da questa cosa. Allora, intanto, no? Lo salutiamo. Brava. È arrivato Andrea Salonia, ciao Andrea. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno, ciao Deborah, ciao Nico. Perché il nostro agente di commercio noi oggi lo leggeremo dal punto di vista del cuore, dal punto di vista dei denari, perché ha un profilo molto interessante, perché rappresenta un po' l'uomo di oggi. In corsa, con un sacco di stimoli assolutamente da cogliere momento per momento, mi sembra l'uomo perfetto, rappresentativo di quello di cui vorremmo parlare. Certo. Quindi ritornando un po' al percorso che un giovane deve fare, magari diamo qualche piccolo iniziale suggerimento, poi approfondiremo dopo i suggerimenti per chi è in viaggio, perché tra l'altro è quasi ora. Ok, allora rapidamente, allora, sicuramente interfacciarsi con le aziende, quindi comunque se vuole iniziare, allora se parliamo di quelli che sono rapidamente i requisiti per diventare agente di commercio, occorre un diploma di indirizzo commerciale, un diploma diciamo quindi di ragioneria per capirci come cosa, oppure una laurea in materie economiche anche breve volendo, oppure in teoria, però questo magari per i giovani non vale, aver lavorato come direttore, come addetto alle vendite presso un'azienda diciamo commerciale, anche questo va bene. In mancanza si può fare un corso abilitante alla professione dell'agente di commercio. Ah, quindi, ecco, perché magari una persona diplomata al liceo classico, magari si è laureata in lettere, non trova la sua strada perché magari quell'indirizzo di studio lì sappiamo che è un po' complicato, può però fare, sostenere un corso per potersi abilitare a per potersi abilitare alla professione di agente di commercio. Quindi in questo modo diciamo si può iscrivere ed ottenere la qualifica di agente di commercio. In realtà diciamo con le ultime modifiche che sono state apportate è necessario anche avere un contratto di agenzia in essere, quindi è un po' una cosa che fa a pugni, no, questa cosa, quindi per cui puoi iscriverti come agente di commercio esclusivamente se hai già un contratto come agente di commercio. Questa è un po' una cosa che fastidiosa, se vogliamo. Quindi in teoria uno deve aprire la partita IVA alle agenzie delle entrate e presentare un mandato di agenzia, altrimenti la può aprire come partita IVA ma risulta inattiva. Ci sembra un aspetto delicato, Davide, questo magari direi di approfondirlo. Naturalmente torniamo subito dopo le informazioni sul traffico. 800 24 00 24 per intervenire in diretta e raccontarci la vostra esperienza, esprimere magari i vostri dubbi, avere un consiglio dai nostri esperti. Tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Cuore e Denari. Non ha importanza se cerchi di vendere Gesù o Buddha o i diritti civili o come arricchirsi nel settore immobiliare senza rischiare un soldo. Questo non fa di te un essere umano. Semmai fa di te un agente vendite. Se vuoi parlare con qualcuno sinceramente, da essere umano, chiedigli dei suoi figli. Scopri quali sono i suoi sogni, solo per saperlo, per nessun'altra ragione. Perché appena cerchi di prendere le redini di una conversazione per pilotarla, non è più una conversazione, è un pistolotto. Siamo tornati insieme, convincere l'altro, curare le relazioni, contatti, essere sempre sul pezzo, ormai con la crisi siamo un po' tutti agenti di commercio di noi stessi. Cuore Denari, sempre qui in Fiera Milano City per Forum Agenti di Milano, 800 24 00 24, raccontateci e raccontate il nostro numero verde come se foste degli agenti di commercio e quindi una persona sempre alle prese con mille sfide che ogni giorno deve affrontare, sempre nuovi impegni, e trovare un equilibrio perfetto tra le tante richieste che deve soddisfare. Un uomo che, contraddicendo il messaggio di una famosa pubblicità, chiede e chiede molto a se stesso dal punto di vista del corpo e della mente. Andrea, oggi come sempre nell'ottica di salute uomo terremo ben presenti queste due dimensioni per dare suggerimenti concreti, quindi per mettere al lavoro i nostri esperti e quindi il nostro anche Andrea Salogna, che si occuperà nel modo specifico della salute del nostro agente di commercio che abbiamo un po' utilizzato come paradigma dell'uomo moderno, dovete darci delle indicazioni. La prima è l'età, una donna non si chiede mai, ma un uomo sì, e può essere un'indicazione utile per inquadrare la fase della vita in cui si trova il nostro uomo. Ogni età ha le sue fragilità, ma anche i suoi punti di forza, conoscerli può fare la differenza, Andrea. Estremamente importante, l'età è uno dei parametri più rilevanti proprio nella valutazione della salute maschile, perché c'è un'età e una salute per ciascuna delle età. Partiamo dall'età anche pediatrica, se vogliamo, che al maschile è molto diversa rispetto all'età femminile. Certo. Molto importante l'età adolescenziale, e ci sono oggi degli adolescentologi addirittura che se ne occupano, proprio come medicina di genere al maschile e al femminile. Non parliamo poi dell'età giovanile, io penso ai miei studenti, penso agli specializzandi, cioè quelli che sono fondamentalmente tra i 20 e i 30 anni, che hanno un'età splendida ma allo stesso tempo piena di problematiche legate al mondo del lavoro a cui si affacciano, che si ripercuotono proprio sullo stato di salute generale. Abbiamo detto tante volte dell'età dopo i 40 anni o attorno ai 40 anni, quella è un'altra età peculiare, e poi dai 50 in avanti l'età è un paradigma dello stato di salute, perché ciascuna delle decadi avrà problematiche specifiche, e oggi la medicina di genere proprio si dedica al discriminare, se vogliamo una parola forse un po' troppo forte, ma insomma a distinguere molto bene ciò che distingue l'uomo dalla donna durante il periodo dell'invecchiamento. L'età è fondamentale. L'età è fondamentale, anche l'età del nostro agente di commercio, e poi ci serve sapere se il nostro agente è uno sportivo da palestra o da divano, perché l'attività fisica è fondamentale per il benessere fisico e psichico dell'uomo, specie se si avvicina ai 50, come ricordava Andrea Salonia. L'attività fisica regolare e mirata riduce lo stress. Stiamo parlando di una professione in cui, Davide me lo confermi, lo stress è molto alto, altissimo, e quindi è anche un'attività che richiede ore e ore passate anche negli spostamenti alla guida, per cui è importante che all'800 24 00 24 ci date anche questa indicazione. Andrea, perché? L'età, come l'abbiamo appena detto, e l'attività fisica, io direi più che un'attività sportiva, un'attività fisica regolare diventa un po' barometro dello stato di salute, nel senso che per ogni età, ce l'hanno detto tante volte gli esperti che abbiamo avuto la fortuna di intervistare o di avere con noi in trasmissione nel corso degli ultimi mesi, l'attività fisica regolare è estremamente importante, lo è per la mente, perché ci permette di essere pronti, e credo che un agente debba essere pronto in ogni momento a cogliere opportunità e quant'altro, ci permette di essere cardiometabolicamente preparati alle varie sfide che la quotidianità, soprattutto la nostra incessante quotidianità, ci propone e ci impone, benissimo. Gli aspetti cardiovascolari sono indubbiamente rilevanti, ma ci hanno spiegato i nostri ortopedici nelle puntate precedenti come sia importante parlare di attività fisica regolare e di un certo tipo di attività fisica regolare anche per la salute dei muscoli. Certo. Io voglio spendere una parola per il nostro apparato urogenitale, da urologo ed andrologo, l'attività fisica regolare è fondamentale anche in quello. Ci sono dati meravigliosi che dimostrano sostanzialmente come la salute della sessualità, la salute della menzione siano strettamente regolati in un'attività fisica regolare che talvolta si associa a una dieta corretta. E poi vogliamo sapere se siete sovrappeso, normopeso, questo si chiede sempre, ma noi vogliamo sapere di più, vogliamo sapere i numeri, un numero per l'esattezza, che è quello della circonferenza addominale. Chiamateci anche se siete soliti dire di voi sono magro ma ho la pancia, perché questo fa la differenza. È enorme la differenza. Anche per il nostro agente di commercio, ma qua io li vedo che sono tutti smilzi. Quasi tutti smilzi, possiamo dirlo, sì. Quasi tutti smilzi. Ci sono allora, io. Diciamo, i margini di miglioramento sono sempre tanti, però diciamo che mediamente la media degli ospiti di questa mattina è di persone smilze con attività fisica regolare. Ecco, perché abbiamo chiesto tutte queste indicazioni? Perché queste indicazioni sono utili per l'agente di commercio, ma per chi si riconosce in una professione di questo tipo, quindi molto stressante, impegnativa, che richiede una prontezza e un equilibrio, un benessere fisico e psichico per essere sempre pronti, sono utili per trovare la causa di quella stanchezza, di quell'esaurimento che ciascuno di noi avverte, ma che si può presentare in modi differenti, in alcuni con una sorta di iperattività, persone che non riescono mai a stare fermi anche quando potrebbero durante il weekend, oppure persone che alla fine restano proprio stanche e quindi sono portate a rallentare la loro attività. noi ha siamo detto pronte. Tutto correttamente. Sì, no, abbiamo ancora un minuto prima della pausa del giornale radio, un commento di Andrea Salonia. Io ritengo che l'aspetto dell'equilibrio di cui Nicoletta adesso parlava sia fondamentale. Oggi ho scritto l'editoriale per il nostro mese proprio dedicato a questo, cioè pensando che sia fondamentale una vita che sia alla, diciamo, capace di sottolineare la necessità di repentinità, di velocità, di quasi di frenesia, perché altrimenti tutte le opportunità anche per i nostri agenti non vengono colte o è difficile sostanzialmente essere sempre, oggi si dice, sul pezzo. Certo. Ma al pari è importante tutto il resto, anche una vita giudiziosa e di equilibrio che ci permette di fare attività fisica regolare, non stare solo sul divano, ma quando serve anche stare sul divano. Allora cogliete l'attimo, non perdete tempo. 800 24 00 24, ti è piaciuta? Vogliamo vedere quanto siete rapidi. Allora, tra l'altro abbiamo Carlo e Stefano al telefono, li sentiremo dopo il giornale radio. Le preannuncio già, ti preannuncio Davide, che si lamentano della tassazione che è caricata sulla professione, quindi poi ci spiegherai anche le modalità fiscali che vi vessano un po'. A tra poco. Vabbè. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da... Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Cuore e denari. Sì, viaggiare evitando le buche più dure. Ed effettivamente viaggia molto, moltissimo il protagonista della puntata di oggi, l'agente di commercio Davide Ricci, presidente di agenti.it. Sì, che, sì, sì. Quanti chilometri in anno? Vuoi saperlo? Sì, reggetevi certo. Forte. Sentiamo. Perché il dato è un dato di quelli importanti. In un anno gli agenti di commercio, la categoria, percorre 6 miliardi di chilometri. 6 miliardi di chilometri. Allora, io non potevamo non so fare il domandone. Quanti ma... giri del mondo? Aspetta, 6 miliardi. Ma ne ho un'altra, magari fra mezz'ora la proponiamo, vediamo se sono stati attenti, allora, gli ascoltatori. Beh, però ne abbiamo anche un'altra, volendo possiamo anche dire quante auto nuove al giorno comprano gli agenti di commercio. Fantastico, questo mi ragazzi. Piace, questo è il domandone di oggi di allora, Cuore Denari. Capiamola bene, cioè ogni giorno mediamente in Italia si vendono delle auto nuove, parlo di auto nuove. Sì, solo sì. Gli agenti e di le commercio... immatricolazioni hanno ripreso quota per fortuna da qualche mese dopo anni veramente devastanti per l'industria. Gli agenti di commercio valgono un 3% del mercato, quindi fatte 100 le auto, 3% le comprano, le acquistano gli agenti di commercio, che non è poco, ok? Perfetto. Allora, la domanda è: quante automobili al giorno la categoria degli agenti di commercio compra? Allora, ricordiamo che gli agenti di commercio sono circa 240.000, non è questa la cifra ovviamente quotidiana, sarà molto inferiore, però sarà una bella percentuale. Ottimo. Allora, chiediamo anche un domandone dalla parte di Cuore. Andrea, allora, non so se riuscirai a battere il nostro Davide Ricci con una domanda. Noi una domanda l'abbiamo già fatta in realtà, ci siamo chiesti quanto stare sul divano induca un incremento della circonferenza vita e quale sia il numero magico al di sopra del quale la persona può ritenersi più o meno sana. Qual è la circonferenza vita patologica o al di sopra della quale si può ritenere patologico nel caso del sesso maschile? Perché è di questo che stiamo parlando. 800 24 00 24 è il nostro numero verde per dare i numeri, perché esatto. Di numeri, numeri esatto. Li cerchiamo. Per me il più importante dato oggi è questo: gli agenti di commercio svolgono un'attività che vale il 70% del PIL italiano, ormai me lo sono inciso sulla pietra. Sulla mia pietra mentale, come dico sempre. Allora, ci sono anche naturalmente i nostri ascoltatori. Andiamo, Deborah. Cominciamo con Carlo da Brescia, che aspettava da prima del radiogiornale. Carlo, benvenuto. Vi sentiamo tutti insieme, così poi faremo la batteria di risposte. Carlo. Sì, grazie mille. Buongiorno, Deborah, Nicoletta e anche il dottor Rizzi. Allora, volevo dire, noi siamo 240.000 ad oggi. Però bisogna verificare anche l'andamento degli anni passati. 6-7 anni fa noi eravamo 450.000. La crisi ha falcidiato metà degli agenti di commercio. Oggi il lavoro dell'agente di commercio è comunque bello, carino, tutto quello che vogliamo, ma oltre a questo la tassazione ci massacra. Io ho fatto un conto l'altro giorno, eravamo al 57% e diciamo che di ragazzi giovani che vogliono partire. Io ho 52 anni e vado avanti, ma ragazzi giovani che già partita IVA iniziata sono 10.000 euro secchi così, proprio buttati lì. Io non so oggi un agente di commercio che voglia intraprendere l'attività, sì, non lo so, se certo, se voglia o meno molto, di farlo molto... Carlo, se può consolarla, diciamo dal punto di vista dei denari, questa è la sollecitazione più diffusa fra tutte le persone che ci stanno chiamando e scrivendo, sia all'800 24 00 24 che al 349 238 6666. Facciamo rafforzare il messaggio anche a Stefano? Certo, che volentieri. Stefano da Modena. Buongiorno, grazie mille a tutti. E confermo quello che dice il collega Carlo, perché anch'io nel mio piccolo ho un 42% di tassazione e porto a casa 1.100 euro. Stefano, che vi va bene, perché da osservatori, Stefano, perché gli osservatori in realtà di Confindustria o della CGIA di Mestre raccontano di un peso fiscale sull'attività professionale autonoma che è ben superiore al 60%, per cui se loro ci danno queste cifre ci possiamo, Davide Ricci, persino accontentare, non lo so qual è la percentuale, sì, corretta. È chiaro, nessuno vuole mai pagare questo, cioè, o comunque vabbè, pagare il giusto. No, questo libero professionista, diciamo, esatto, che la vede di più, perché tutti i mesi il lavoratore dipendente non lo non vede. Questo, questo è vero. C'è una diversa però, consapevolezza. Sì, sì, è comunque tanto, e oserei dire un parere personale, anche troppo. Questo, vabbè, ma è un mio parere personale, non è che sono in grado di dire, cioè, sono agente di commercio, quindi non pretendo di risolvere tutti i problemi dell'Italia in questo momento. È sicuramente inferiore, però per mi aggancio a quello che aveva detto Carlo da Brescia prima, che diceva dei giovani. Ecco, allora è molto importante, per esempio, adesso per i giovani, con questi nuovi regolamenti che sono stati introdotti, poi voi sicuramente li conoscete meglio di me, bisogna sentire un esperto prima di aprire la partita, diciamo prima di aprire la partita IVA, perché oggi sicuramente un nuovo agente, se si mette in alcuni regimi contabili molto agevolati, può addirittura arrivare al 5% di imposta sostitutiva. Sì. Per 5 anni, per un tot di anni. Quindi di attività. È giusto che gli agenti di commercio, che fanno gli agenti di commercio da tanti anni, si lamentino di una tassazione okay, comunque eccessiva. Però per i giovani ci ma sono buone opportunità. Per i giovani ci sono delle opportunità. Poi, se questo giovane potrà guadagnare dei soldi che gli consentono comunque di fare l'agente, perché in realtà, prima di tutto, l'agente di commercio, cioè, deve andare a vendere, deve guadagnare, esatto, i soldi. Quindi noi ci stiamo preoccupando, esatto, della tassazione, ma preoccupiamoci anche prima della qualità del lavoro che viene offerto e del fatto che lui vende e guadagnerà esclusivamente se andrà a vendere. Esatto, poi, no? Diciamo che il regime fiscale agevolato però è consentito solo se si mantiene un fatturato annuale che mi pare si giri intorno ai 30.000 euro, naturalmente, non appena si supera. Noi auguriamo a tutti gli agenti di commercio di superarlo, si passa subito alla tassazione ordinaria, alla fiscalità ordinaria. Esatto. Però intanto è un'opportunità per cominciare. Sì, direi di sì, anche perché cominciare come agente di commercio non è che si comincia e si guadagnano subito 50, 60, 70 mila euro di provvigione, anche perché se non si conosce il mestiere prima bisogna imparare, quindi certo, ci sono diversi sistemi al di là di tutto per avere una formazione nel settore. Allora, andiamo a Walter che ci chiama da Roma. Buongiorno Walter. Buongiorno Debora, buongiorno Nicoletta. Buongiorno, benvenuto. Grazie. Ci racconta. Voglio dare il mio contributo, sì, di 42 anni di lavoro come agente. Sono andato in pensione a 60 anni e poi sono stato richiamato dall'azienda e quindi ancora oggi lavoro. Era sì, bravo. Ed è bravo. Sì, l'unica cosa che volevo dirvi, e vi chiedo il vostro aiuto e del dottor Speciani, è che purtroppo in tutti questi anni ho caricato le tensioni del lavoro sulla forchetta e quindi che no, ecco, la posata va posata e la forchetta invece Walter non l'ha posata mai e quindi evidentemente il suo peso è aumentato. Grazie Walter. Professor Salonia, detto Andrea per gli amici. Certo, è quello che dicevamo poc'anzi, cioè il fatto che esista sostanzialmente un'attività di tipo lavorativo spesso stressante, spesso molto impegnativa, talvolta con tutti questi chilometri all'anno, ma questo vale, se posso permettermi, anche per tutte le altre professioni. L'abbiamo presa proprio a modello. Esatto, ma vale per tutte le professioni laddove ci sia una componente di stress importante e al tempo stesso laddove ci sia la necessità di pasti fuori casa, cene, piuttosto che una dieta che non sia perfettamente corretta. In questo caso ancora di più sarebbe importante seguire un'attività fisica regolare, quanto più possibile regolare. particolare, senza essere tutti sportivi o degli Yuri Keki, perché questo è il paradigma che io faccio sempre. Ma è il certo nostro amico Yuri, l'abbiamo proprio sentito ieri, l'abbiamo avuto ospite. Lo so, ed è per questo che ve lo dico. Fondamentalmente, però, questo è importante perché permette sicuramente di avere una cosiddetta preservazione dello stato di salute e la circonferenza vita, piuttosto che non svegliamo ancora il nostro numero magico, ma quello è indubbiamente indice paradigmatico dello star bene in futuro, dello stare poco bene in futuro. E l'età di cui parlavamo prima, l'età adolescenziale, l'età dei 30, l'età dei 40, dei 50, sono tutte età emblematiche anche in ambito alimentare, e l'attività fisica che fa da connubio, si sposa perfettamente con una dieta regolare, risulta molto importante anche per questo nostro ascoltatore. Certo. Che ci ha appena detto: io ho ficcato lì a livello dell'addome tutte le mie tensioni nel corso del attività tempo. Fisica, parleremo anche di attività mentale con il prossimo ospite. Abbiamo detto stress, devono essere pronti, il cervello è un organo nei confronti del quale abbiamo un timore reverenziale, per cui alle prime defaianze, soprattutto in una professione come quella dell'agente di commercio, in cui si deve essere molto pronti, si devono curare le relazioni, si devono trovare, Davide, subito delle soluzioni. Ecco, un rallentamento, una stanchezza possono in qualche modo creare una preoccupazione. Ah, sì, certo. Non solo dal punto di vista della salute, ma anche proprio per la resa lavorativa. Ecco ancora che il cuore e il denari si intrecciano, e per questo vi invitiamo a chiamare, a raccontarci come funziona, no, la vostra attività mentale. È uno stimolo, allena il vostro cervello, o vi sentite mentalmente stanchi, e perché? Quali segnali vi manda il vostro cervello affaticato, in fumo? 800 24 00 24 ci raggiungerà il prossimo ospite pronto a darvi soluzioni. Allora, intanto volevo leggere il messaggio di Claudio da Bergamo, che ci racconta di essersi messo in ascolto un po' tardi e richiede: è una fiera esclusiva quella dalla quale state trasmettendo, per agenti che cercano lavoro oppure per aziende, o è anche per aziende che cercano agenti? No, si fa proprio l'incontro fra domanda e offerta. Esatto. Reciprocamente. Le aziende, Davide, sì, Ricci. Le aziende sono gli espositori e parlano con gli agenti di commercio direttamente qua. E allora la domanda di Claudio da Bergamo è un assist perfetto, perché Davide Ricci vorremmo anche raccontare come funziona questo vostro strumento che avete messo a punto da circa un anno, che si chiama Agent 321 Job, ed è proprio, come dire, un'interfaccia, uno strumento che fornisce mensilmente un quadro di tutte le proposte di contratto e delle effettive candidature degli agenti, divise per merceologia e per area geografica. Come si usa? Allora, che cosa succede? Tutte le aziende che mandano degli annunci di ricerca agenti, quindi che stanno cercando, vengono monitorate, quindi tutte le offerte che azienda del settore edilizia cerca un agente di commercio in Lombardia piuttosto che in Sicilia. Dopodiché a questo annuncio corrispondono delle risposte, quindi arriveranno dei curriculum, 1, 2, 3, 4. Questo indice misura, appunto diviso per settore merceologico, quante sono le offerte nel settore ferramenta giardinaggio, e a quelle offerte quanti agenti di commercio hanno detto sì, io posso lavorare con te. Quindi come si usa? Semplicemente potremmo avere nel settore edilizia, faccio un esempio, il 10% delle offerte di lavoro e magari abbiamo il 15% delle risposte. Cosa vuol dire questo dato? Questo dato potrebbe voler dire che sono tanti gli agenti che hanno voglia di lavorare in quel settore, quindi magari l'azienda ha più facilità e ha un numero più elevato di agenti dove andare fondamentalmente a pescare. Certo. Quindi che cosa fa un nuovo agente di commercio? Perché può essere usato sia dalle aziende che dagli agenti, naturalmente. Un nuovo agente potrebbe decidere magari di andare in settori di nicchia dove magari ci sono tante offerte, meno a livello naturalmente percentuale, perché altrimenti non si chiamerebbe settore di nicchia, però dire: mi vado a specializzare magari in quel settore perché ho più opportunità, perché ho l'azienda che emergente, sono i lavori... il settore emergente, quali opportunità nuove cavalcare. Esattamente, no? Io però quello che consiglio, a prescindere dall'indice, che è comunque una cosa molto utile per orientarsi, è seguire, e qui il cuore c'è tutto, le passioni. Quindi io consiglio che se noi abbiamo una passione per qualcosa nella vita, l'agente di commercio può trasformare le sue passioni poi anche in opportunità. Benissimo. Di lavoro. Senti, questo Davide, sì. È venuta a trovarmi la mia amica Serenella, un agente di commercio molto in gamba, oltre che ad essere una carissima amica. Quante donne fanno questo lavoro? Abbiamo un monitoraggio allora, da questo punto di vista di genere, diciamo? Sì, in realtà non sono molto preparato su questa cosa perché mi è sfuggita. No, però posso dire che non è una percentuale rilevantissima. No, assolutamente è al di sotto del del 10%, al di sotto del 10%, e ci sono dei settori, proprio per quello che dicevo prima, che sono magari più dove si utilizzano di più agenti di commercio donna. Dico una banalità, ad esempio quel settore estetico, anche se adesso anche gli uomini si stanno molto buttando in quel settore là, o per esempio una cosa che non ho mai capito perché, ma poi l'ho studiata e penso di aver dato la mia interpretazione, è il settore, diciamo, dei settori del surgelato. Come mai le donne il surgelato? Non perché fanno la spesa, questa non è la realtà, ma perché quel tipo di settore, avendo necessità del passaggio dell'agente di commercio in maniera, non dico giornaliera, ma quasi, perché il surgelato, ok che nel frigorifero non scade, ma i frigoriferi nei negozi sono sempre più stretti, quindi non è che si può ordinare molto, perché sennò poi il prodotto diventa, va male, la donna può conciliare l'attività, chiamiamo anche di madre, per cui magari in mezza giornata riesce come agente di commercio a fare quel lavoro e magari il pomeriggio lo dedica alla famiglia. Insomma, un settore anche che quello, in qualche modo consente. Quindi diamo un'indicazione di vita, ad esempio. Lavoro. Allora, vogliamo un ascoltatore? Abbiamo un'altra domanda per Andrea. Abbiamo sicuramente anche l'altro ospite. Vogliamo salutare il nostro prossimo ospite, il dottor Sandro Iannaccone, primario di riabilitazione specialistica in disturbi neurologici cognitivi e motori all'ospedale San Raffaele. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Lei si occuperà del nostro agente di commercio e quindi noi chiediamo agli amici da casa di presentare la vostra candidatura in diretta all'800 24 00 24. Possiamo darvi consulenza di denari con Davide Ricci e di cuore con il professor Salogna, che è pronto a rispondere a tutti i vostri dubbi, e al dottor Iannaccone, che ci aiuterà, dopo che l'abbiamo cercato, ad occuparci del nostro cervello. Quindi chi è cervello munito? 800 24 00 24. Iniziamo subito, dottor Iannaccone, con una buona notizia: non esiste un decadimento progressivo e generale del cervello, alcune funzioni restano al top fino e oltre 70 anni, l'importante è saperle sfruttare al meglio? Sì, esatto, dipende, diciamo, anche dall'uso che se ne è fatto del nostro cervello durante la nostra vita, nel senso che il cervello va inteso un po' come un organo vitale, un po' come un muscolo, quindi si adatta a quello che è stato il suo stimolo nel corso della vita. E per cui ci sono delle situazioni in cui si riesce a mantenere un'ottima efficienza fino a età impensabili, fino a qualche decennio fa. Quindi possiamo far invecchiare bene il nostro cervello e mantenere un cervello giovane e attivo, e l'importante è sapere come fare. Questo ci insegnerà il dottor Iannaccone e naturalmente Andrea Salogna nel corso della trasmissione, quindi candidatevi all'800 24 00 24, raccontateci i segnali che vi manda il vostro cervello, lapsus, vuoti di memoria, perdete magari il filo del discorso, notate un cambiamento, prima eravate molto pronti e reagivate alla proposta del cliente, eravate subito pronti a suggerirgli un'altra soluzione, adesso vedete che fate un pochino più fatica. Ho indovinato un po', Davide? Sì, perché a me capita, perché sì. è una situazione in cui non solo gli agenti di commercio, anche i medici, immagino, chiunque. Andrea, in cui tutte le persone si riconoscono, e quindi approfittate dei consigli dei nostri esperti. Allora, direi di sentire Antonio dalla provincia di Pordenone. Vogliamo ricordare anche i nostri domandoni? Mi piace. Perché veramente ci siamo lanciate oggi con due super test per i nostri ascoltatori e devo dire che in tanti stanno raccogliendo la provocazione. Allora, la prima domanda ce l'ha suggerita Davide Ricci. Parlavamo di quanto viaggiate nel corso dell'anno. Esatto. I miliardi di chilometri che fate è una cifra impressionante, ma siamo andati ancora più sul difficile. Abbiamo chiesto ogni giorno quante auto nuove acquistano gli agenti di commercio. Un'auto al giorno, due auto al giorno, cinque, ma mi sono tenuto basso apposta. Basso, in realtà. Quante auto nuove è un po' al più giorno? Alta. Sì. Mentre invece Andrea Salogna ha puntato anche su un numero preciso, che è quello della circonferenza addominale maschile. Esatto. Superarlo può costare caro. Sì, perché? Dal punto di vista della salute generale, anche di quella sessuale, dato che siamo a salute uomo. Esatto. E qua noi non censuriamo nessun argomento. Esatto. Uomo de panza e di sostanza, non è detto. Non è sempre detto. Non è sempre sempre così. Soprattutto e mi fermo qui. Esatto. Davide, perché ti senti un po' toccato sul vivo? Ma. Ti ho anche detto che sei dimagrito dall'ultima volta che ti ho visto. In realtà noi ti troviamo in ottima forma. Sì, credo non a sufficienza, perché riguarda il professore. Che... Quindi c'è un rapporto peso-altezza, secondo me, a favore, ma una circonferenza vita a sfavore. Mannaggia, ma noi in un anno tallone d'Achille. Guarda, ti affidi a noi, in un anno ti facciamo un figurino. Ecco. Va bene, se ne può parlare. Facciamo questo percorso. Offre la sua candidatura. Ottimo. Sì. Antonio dalla provincia di Pordenone invece vuole raccontarci quanto è virtuoso con il suo comportamento. Un agente di commercio che, Antonio... Buongiorno Debora e buongiorno a Nicoletta, ai vostri ospiti. Eccoci a lei. Allora, sì... Io, oltre a fare l'agente di commercio, e confermo quello che hanno detto prima in precedenza i miei colleghi, che è un lavoro che ha dei costi notevoli ed è anche molto stressante, allora io per i costi mi sono affidato a una commercialista e per lo stress ho coltivato da sempre una passione che era una volta e che adesso è diventato il mio modo di vivere ed è lo sport. Io pratico karate da parecchi anni e devo dire che per me questa attività sportiva, che direi è un po' riduttivo dire attività sportiva, è proprio una disciplina, una filosofia, un modo di vivere. Sì. Un modo Bravo, di vivere, Antonio. Un modo di vivere, sì. Per guarda, me... io ad Antonio vorrei regalare un libro. Ah, guarda, e voglio che... regalare il libro di Debora. Ma perché? Perché è un libro che mi piace, che io vorrei leggessero tutti. E quindi, Antonio, le regalo il libro che... di Debora Rosciani, Donne di Denari, bene. Perché serve anche molto agli uomini e anche e soprattutto agli agenti di commercio. E non dico oltre. È il karateki. È il karateki. Allora, ci piace il profilo di Antonio, Andrea Salonia? Sì, assolutamente ci piace, perché è un buon connubrio, abbiamo parlato prima. Prima di equilibrio, questo è un perfetto equilibrio. È certo vero che c'è sempre più elevato in Italia il numero di uomini che si prestano meglio, che praticano attività marziali, perché quello di cui il nostro ascoltatore ci sta raccontando, anche se rimane l'attività sportiva per eccellenza in Italia, la corsa in chi è neofita e comincia a fare attività sportiva, oppure il fitness in ambito aerobico e anaerobico, anche il sollevamento pesi, piuttosto che l'attività ginnica in palestra regolarmente. Allora, tu parli di allenamento, di attività fisica e di allenamento col dottor Iannacone, subito dopo le informazioni dalla sui borsa, mercati esatto, dalla borsa sono pronta. Cercheremo di capire come va allenato questo muscolo, è un muscolo preziosissimo, bisogna mantenere quello che gli addetti ai lavori dicono riserva cognitiva, che sarebbe una sorta di cervello di riserva che può essere sempre utile, e quindi 800 24 00 24 per tutte le defiance vero presunte che del vostro cervello. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Cuore e denari. Sì, c'è da fare. Il protagonista della puntata di oggi di Cuore e Denari, l'agente di commercio, ha sempre da fare, è in mille faccende affaccendato, passa da un cliente all'altro, deve metabolizzare centinaia e centinaia di informazioni e essere pronto a trovare la soluzione giusta al momento giusto. L'abbiamo preso un po' a modello dell'uomo di oggi, del professionista impegnato e un po' in qualche modo sopraffatto dal logorio della vita moderna. Vogliamo occuparci naturalmente non solamente della sua salute fisica ma anche di quella mentale, e allora ci affidiamo a un grande esperto, al dottor Sandro Iannacone, che abbiamo il piacere di avere qua con noi. Dottor Iannacone, bisogna, per mantenere il cervello attivo, lei ha detto, un muscolo va allenato, allora iniziamo proprio il nostro programma di allenamento, magari cerchiamo prima di individuare quelle che sono considerate le defiance da molti di noi, magari poi pensiamo alla stanchezza, ma come sempre si dice, se il sintomo persiste, meglio vederci chiaro. Quali sono i segnali, dottor Iannacone? Allora, prima diciamo cosa fa male. Sì. Fa male soprattutto l'utilizzo di alcuni farmaci in particolare gli ansiolitici, ma anche in parte gli antidepressivi, perché riducono le capacità di memoria, quindi i farmaci per dormire o per l'ansia in generale hanno un effetto collaterale che è molto importante sulla memoria. L'altra cosa è il rapporto con il sonno, cioè sia a livello quantitativo, cioè poco sonno, troppo sonno, ma anche a livello qualitativo il tipo di sonno. In particolare il poco sonno in generale dà il giorno dopo per alcune ore una sorta di attivazione, ma poi le performance scadono in maniera abbastanza importante. E invece per quanto riguarda la qualità del sonno, il riferimento soprattutto ai russatori o le persone che hanno problemi di respirazione notturna, perché nel corso del loro sonno non c'è un sonno qualitativo e soddisfacente, quindi la conseguenza è una certa sonnolenza e un certo appannamento durante il giorno. Quindi ai nostri amici da casa chiediamo anche come riposate, perché tante volte questa stanchezza, questa difficoltà nel fare le cose può dipendere da una qualità del sonno non adeguata. Andrea Salogna voleva intervenire. Sì, tu dormi bene, Andrea? Io dormo male, ecco. Poco e male, ma al di là di quello trovo che ci sia una strettissima correlazione tra la qualità del sonno, ad esempio, e la salute maschile, considerata proprio dal mio punto di vista, dal punto di vista dell'urologo, perché la frammentazione del sonno che si impoverisce laddove io mi debba alzare molte volte durante la notte per andare ad urinare, stimolato dalla necessità di andare ad urinare, fa sì che al mattino molti dei nostri pazienti ci dicano esattamente questo: io non sono riposato perché il mio sonno è stato interrotto tante volte dalla necessità di urinare. Questo sintomo, che si chiama nicturia, che vuol dire mi devo alzare ed è improcrastinabile la necessità di andare ad urinare, è parte di un insieme di quelli che si chiamano disturbi del basso apparato urinario, di cui in parte abbiamo già parlato altre volte, che sono tipici dell'uomo che invecchia. Quindi non solo teniamo allenato il nostro cervello, ma andiamo a curare lo stato di salute urogenitale anche in questo senso. Abbiamo gli ascoltatori che vogliono intervenire all'800 24 00 24. Allora andiamo sul girovita. Giovanna da Firenze che si candida, finalmente ascoltiamo una donna, il nostro programma di stamattina. Giovanna, benvenuta. Intanto fa l'agente di commercio lei? No, buongiorno. Voleva solo buongiorno partecipare Deborah, per rispondere al telefono. Buongiorno Giovanna. Non allora sono agente di commercio, faccio tutt'altro. Beh, è un'amica di Cuore Denari e questo vale sì, ancora, sì. No? Vale sì, molto. Esatto, già solo questo farebbe partire il libro, però vediamo se ha risposto bene al domandone, sì. Sul girovita, Giovanna. Sì, il girovita per gli uomini massimo 102, anche se ora perfetto sarebbe tra 94 e 102, al di sotto, sì, naturalmente, e per, sì, le donne 88. Quindi diciamo 102 e 88 sono le soglie massime accettabili, massime, al di sopra delle, esatto, quali proprio non bisognerebbe mai, Andrea Salogna. Giovanna non ce l'ha detto, ma fa il medico. Forse sì, no, non lo so, però sta sempre lì a provare il marito. È stata molto brava. Secondo me il marito potrebbe essere agente, grazie, di commercio. Grazie Giovanna. No, sotto Giovanna, controllo il marito. Il marito è sotto controllo, dorme, certo, bene. Certo. Gli misuriamo la circonferenza vita, perfetto, grazie Giovanna, che riceve a casa certamente un libro. Certamente, esatto. Allora, Denari. Rimane ancora in sospeso un altro domandone, per il quale poi sentiremo altri ascoltatori che si stanno candidando. Lo sentiamo subito, Bruno da Como, magari. Bruno, benvenuto. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Sì. Vada Bruno. Dunque, i chilometri, le macchine acquistate sono 7200. Un po' tante in un giorno, Bruno, un po' bisogna tante. Calare un po', calare Bruno. Sono un bel numero, però ecco, 7200 sono tante, perché se si vendessero 7200 auto al giorno solo per gli agenti saremmo di commercio, bene, il mercato sarebbe, sì, più ricco. Sergio Marchione non se ne sarebbe mai andato negli Stati Uniti. No, assolutamente. Ecco, certamente, ecco qua. Anche perché 240.000 agenti, 7000 macchine al giorno, ogni quanto la cambiano la macchina? Santo cielo, ma va bene, Bruno deve calare un po', Andrea, esatto, volevi intervenire? No, io sarei auspicio tornato a quanto dicessimo prima la circonferenza. Mi sarebbe piaciuto chiedere al dottor Iannacone quale importanza esista in termini di correlazione tra la circonferenza vita, l'obesità, la salute e la qualità del sonno e soprattutto la salute a livello cerebrale, le capacità amnesiche, le capacità intellettive, la capacità cioè di prontezza. Cioè il giro vita influenza anche la prestanza e le prestazioni del nostro cervello, dottor Iannacone? Sì, indirettamente sicuramente sì. Questa per esempio, è veramente una pugnalata. Il discorso del respiro durante la notte, la maggior parte dei pazienti che hanno problemi di respiro notturno sono sovrappeso oppure sono sovrappeso nelle zone particolarmente interessate alla respirazione. Però questo discorso apre un po' il capitolo delle cose che fanno bene. Perché ecco, le cose che ci fanno aiutano. Bene sono diciamo, abbastanza semplici e soprattutto sono compatibili anche con uno stile di vita molto impegnato, e cioè sono prima di tutto passeggiare almeno 30 minuti al giorno. Quindi naturalmente fare sport va benissimo, però tante persone dicono io non ho il tempo. Ecco, il passeggiare 30 minuti penso che sia possibile per tutti. Anche alla gente di commercio. Ecco, un altro aspetto è mantenersi attivi, soprattutto continuando a coltivare le relazioni sociali in maniera, diciamo, classica, non vuol dire solo attraverso i social network, ma parlare, questo è un discorso un po' lungo, però diciamo che il rapporto classico, parlare con una persona, con gli amici, eccetera, è molto più impegnativo e attivo per il cervello che utilizzare semplicemente il telefonino. L'altra cosa è dedicarsi a un hobby, e questo ha la sua importanza perché è una maniera di utilizzare il nostro cervello, però non facendo, non lavorando soltanto. Quindi perché ha bisogno anche un po' di svago, esatto, il nostro cervello. Esatto, perché la monotonia è nemica della memoria. Esatto. Cioè, potremmo paragonarlo a quello che è lo stretching per l'allenamento di uno sportivo, no? Lo svago serve sempre, è altro rispetto al lavoro che si fa in palestra, ma assolutamente importante. Però, Nicoletta, dottor Iannacone ha detto una cosa importante, perché la monotonia di per sé può essere di nocumento, può essere di danno anche al nostro cervello. Questo, secondo me, è un dato che non sempre emerge, perché si può fare attività fisica regolare e questo può diventare monotono, si può fare un'attività molto intensa ma può diventare monotono. Forse il nostro agente di commercio, ma anche l'uomo moderno in quanto tale, fa una vita estremamente sotto pressione ma spesso monocorde, quasi come se non esistesse possibilità di sfuggire alla regola, e questo la rende un po' monotona. Forse il fatto è quella varietà che la varietà sottolineiamo sempre per quanto riguarda la dieta, che deve essere varia e equilibrata, anche gli stimoli per migliorare quella riserva cognitiva. Dottor Iannacone, io l'ho chiamato un cervello di riserva, possiamo definirlo così? No, è giusto, si è visto che quella che si chiama riserva funzionale è praticamente un cervello di scorta, cioè se nel corso della vita c'è stato un grosso impegno intellettuale, ma anche leggere e scrivere, non stiamo parlando diciamo di un livello di essere laureati, non si deve essere proprio il Nobel, certo, nella lettura del pensiero eccetera eccetera, si crea questa sorta di cervello di scorta per cui al di là del benessere e di mantenersi in buona forma c'è una vera e propria resistenza alle malattie gravi tipo l'Alzheimer o la demenza da infarti multipli. Perché si è visto che le persone che hanno questa riserva funzionale sono più protette. Dottor Iannacone, riprendiamo subito questo tema, ma devo lasciare lo spazio per le informazioni sul traffico. Intanto invito i nostri ascoltatori a lamentarsi, sì. Ad esempio, quali sono le defiance che notate del vostro cervello? Lapsus, vuoti di memoria? 800 24 00 24, tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Cuore e Denari. Facciamo la rivoluzione se ci va, ma niente come stare nella macchina. Abbiamo già affrontato il capitolo viaggi e agenti di commercio. Per quello che riguarda le auto, abbiamo ancora aperta l'opzione del domandone su quante auto al giorno acquistano gli agenti di commercio. Sono una bella cifretta, ci state andando vicino, ma ancora non vi permettiamo di darci in diretta la risposta giusta, quindi continuate a rifletterci, poi fra un po' vi ascolteremo all'800 24 00 24. Ma Davide Ricci, tornando per un attimo alla professione dell'agente di commercio, c'è una bella riflessione di un ascoltatore che dice: si parla di domande e offerta fra azienda e agente, ma non si parla del cambiamento del profilo dell'agente, che oggi è diventato più un brand manager. Sono pronti gli agenti a questo approccio? I giovani agenti dovranno cambiare caratteristiche e conoscenze, quindi più esperti di marketing e comunicazione digital, e poi ci spiega anche altri concetti che adesso non sto ad indicare, che sono delle denominazioni anche in inglese. Come sta cambiando il vostro allora, lavoro? Allora, mi piace pensare che sono i giovani che cambiano il mondo e non il mondo che cambia i giovani. Questo in linea di massima. O i giovani che devono adattarsi a questo mondo che trovano. Sì, cioè, io da non più giovane vorrei essere messo in crisi dai giovani se glielo lasciamo fare. Quindi questo è chiaro che la tecnologia ha cambiato tutto in linea di massima. Infatti anche per, c'era un ascoltatore prima che aveva detto che il numero era passato da 400.000 a 240.000, ma non è tanto perché la crisi, è stato proprio il cambiamento del mercato, perché la crisi fatturavamo molto più oggi di quanto si fatturava prima a livello di PIL, cioè il PIL è cresciuto da 20 anni a questa parte, sono gli strumenti con cui si fa il fatturato che sono naturalmente cambiati. Quindi sicuramente l'ascoltatore che parla appunto di brand è una cosa interessante, quindi lavorare su se stessi. Il concetto importante che i giovani dovrebbero capire da adesso, una volta naturalmente entrati nella professione, che il loro miglior cliente non è colui il quale gli dà lavoro, quindi non è l'azienda per cui lavorano, ma sono i clienti che rimangono fedeli nonostante la tecnologia. Cioè, se io vado da un cliente, lo servo, gli do un buon consiglio e qualche volta, come posso dire, mi prendo il rischio di non vendere, quindi di non guadagnare in quel momento, lui probabilmente me ne sarà riconoscente. Questo è secondo me una cosa fondamentale, a prescindere dal fatto che naturalmente utilizzano il cellulare per chiamare e non il telefono grigio che c'era una volta a casa. Certo. C'era Andrea Salonia che voleva mi piacerebbe sottolineare questo aspetto della tecnologia, ma soprattutto tornare a quanto il dottor Iannacone ci ha detto poco fa, che secondo me è meraviglioso. Cioè, è vero che non possiamo fare a meno della tecnologia e per il vostro lavoro è fondamentale, per noi medici, io faccio il chirurgo, per noi chirurghi è straordinariamente importante, ma prima il dottor Iannacone ha sottolineato come siano le relazioni interindividuali di tipo tradizionale, il parlare, uscire con degli amici o poter parlare con loro, poter discutere del più del meno, che forse migliorano, certo, le caratteristiche. Quindi coltivate le relazioni, fate attività fisica, cercate di dormire bene, mangiare bene, mangiate bene, ma è proprio un aspetto del cuore che aiuta il cervello. Dottor Iannacone, volevo chiederle appunto il nostro agente utilizza, no, molto la tecnologia perché gli dà una mano, usa tablet, smartphone, PC. Anche questo fa parte dell'allenamento per il nostro cervello, o nuoce o aiuta? Perché si è molto discusso su questo aspetto, su quanto la tecnologia possa in qualche modo stancare o invece allenare il cervello. Lei che ci dice? No, che sicuramente aiuta, però stiamo parlando di lavoro. Il discorso di usare rapporti personali classici riguarda anche il concetto di staccare, cioè di cambiare tipo di stimolazione cerebrale impegnandosi in qualcosa di diverso, perché sennò altrimenti ci rimane a lavorare con i social network per lavoro e per hobby, e questo non è un fatto positivo, ma anche per un altro motivo, che il rapporto classico mette in azione diversi aspetti della nostra sfera cognitiva, anche di sensibilità, cioè quello che è l'empatia, cioè sentire l'altra persona, mentre invece attraverso il social network noi utilizziamo la nostra immagine che ci siamo costruiti attraverso Facebook o altro e la presentiamo alle varie persone con cui veniamo in contatto, e a volte c'è il paradosso che lo stesso aspetto chi si presenta per il lavoro poi lo si lo utilizza sporta, anche certo. Lo utilizza ecco per i rapporti. Dottor Iannacone, l'adoro, posso dirle, questo suo approfondimento sulle relazioni, di quanto l'empatia ci renda veramente unici e attivi tutta una serie di risposte a livello non solo emotivo ma anche cerebrale, è una lettura che mi piace molto al di maschile, cui la ringrazio. Sottolineiamolo, e vogliamo solo aggiungere una cosa, che l'empatia è quel sentimento. Allora vuole farci innamorare, cioè dottor Iannacone, no, vuole vincere, è quel facile. Sentimento è quella sensazione che ha permesso l'uomo di evolversi rispetto alla scimmia. Allora, cioè, il fatto di poter sentire gli altri ha permesso quella scalata che ha permesso all'uomo di essere oggi quello che è. Vedi, ci vuole cuore per fare denari, nel senso che ci vuole anche cuore inteso come emozioni per fare bene anche il proprio lavoro. Soprattutto la gente di commercio, al diciamo. Al maschile, sottolineiamo. E sottolineiamo sempre alle donne. Sì, anche in questo dovete imparare da noi, mi dispiace. Sottolineiamo allora, magari velocemente, sì, che poi Forum Agenti è proprio questo. È un trovare lavoro senza mandare i curriculum e le faremo sapere. Si viene qua e c'è proprio l'empatia del colloquio, cioè è quello importante, esatto. Cioè le persone si mettono sedute e si stringono la mano, nessun social network certo può farmi stringere insomma la mano. Insomma, anche tu sei diventato fan del dottor Iannacone di Andrea Salone. Assolutamente sì. Allora, volevo solo segnalare, noi stiamo chiudendo, ci manca poco meno di un minuto, che la questione posta da Stefano da Roma e da decine di ascoltatori sulla questione previdenziale aperta per gli agenti di commercio, oggi non riusciamo ad affrontarla, abbiamo fatto una scelta precisa perché è estremamente complicata, la questione delle relazioni con Enasar, con l'impossibilità di riscattare i contributi se si cambia lavoro, eccetera. Davide Ricci ci promette che viene a trovarci e magari una volta cerchiamo di spiegare un po' come stanno le cose, certo, perché visto che siete tanti e questa faccenda interessa tutti praticamente, dovremo raccontarla con grande chiarezza, come sempre nella modalità di Cuore e Denari. Scriveteci, perché molti di voi, esatto, ci hanno raccontato anche le defiance del loro cervello, non siamo riusciti a dare voce a tutti. Cuore e Denari è sempre a vostra disposizione. Esatto. Nicola dalla provincia di Venezia, quante auto al giorno comprano gli agenti di commercio? Buongiorno Nicola. Veloce 100, che stiamo chiudendo? 110 auto. Allora, non è questa la cifra esatta, adesso la diremo, Nicola, però il libro parte lo stesso per così, per amicizia e perché simpatia. Si, quante sono, Davide? Il doppio, 220. Bravi, bravi, che bravissimi. Sostenete il mercato automobilistico. Grazie. Grazie ad Andrea Salonia, a Davide Ricci. Grazie.